Avanti un altro. Fateci largo che passiamo noi. Prima Storace, poi Marrazzo, ora la Polverini. Non se ne salva uno. Sti giovanotti d'esta Roma bella. Per guadagnare tempo alla procura di Roma hanno già aperto un bel fascicolo sul futuro governatore del Lazio. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo starvino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo. È meglio il vino dei castelli che questa zozza società.